Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago, quello a cui si offrono le vergini giù nella stanzetta del Bong Bong. Ma quali vergini? Bong Bong, Drago, oggi cosa fai? Hai la maschera dell'uomo tigre. Ti piace, sei contento? Mi piace perché così io sono sempre contento quando anche in te si accende lo spirito del giuoco, del fanciullo. Sì. Ecco, Drago, però un po', respiri, tirala un po' su, che poi dopo se vomiti nella maschera è un po' da soffocare. Vabbè, questa mia mise comunque è seria perché... voi non la vedete alla radio, però è una mise seria, quella dell'uomo tigre. Perché intende rendere omaggio a questo eroe, che è una specie appunto di supereroe degli asili, perché non tutti sanno forse che lui si batteva come wrestler professionista donando tutti i soldi a un orfanotrofio. Allora un bel applauso per l'uomo tigre, Tiger Man. Grazie. Questo qua è una... Stai meglio con... Vabbè, dopo la rimetto. Allora, l'uomo tigre fa beneficenza nei cartoni animati, sì. Ma non solo, adesso è passato alla realtà. Tra Natale e Capodanno in Giappone si sono moltiplicate le donazioni a scuole, asili e orfanotrofi a nome Naoto Date, che è poi il vero nome dell'uomo tigre. No, non ho capito. Cioè, l'uomo tigre o tanti uomini tigre in tutto il Giappone, chissà, hanno cominciato ad agire anche nella realtà, donando materiale didattico e soldi a scuole bisognose, eccetera, eccetera. Cioè, arrivano delle donazioni firmate l'uomo tigre. I giapponesi sono eccezionali. Sì. Dai, ma che terra è il Giappone? Succede in Giappone quello che qui non riusciamo nemmeno a immaginare. L'uomo tigre che pensa interviene. Pensa se anche in Italia spuntasse fuori un giustiziere che procura dossier con prove documentate sui misfatti dei potenti disonesti e che, ne so, si firma... Tex Wheeler. Tex Wheeler, noi ce l'avevamo un Wheeler in politica, no? Ma chi? Wheeler Bordon, l'ex senatore, no? Il marito di Rosa Ferraiolo. Di chi? Rosa Ferraiolo, un'attrice famosa. Ma chi l'ha mai sentita? Vabbè, tu non l'hai mai sentita, però quelli che intercettavano Sacca, te lo ricordi, con le intercettazioni vintage, quelli l'hanno sentita nominare un bel po'. Ma la moglie di Wheeler, cioè di Wheeler. Sì. Adesso capisco perché Tex Wheeler non si è mai sposato, Drago. Beh, Tex Wheeler non si è mai sposato perché è gay, dicono tanti, ma no? Ma con Tex Kit Carson. Non si è mai sposato proprio per paura di beccare una come Rosa Ferraiolo. Poi intercettano Sacca e la tua onorata carriera di Ranger, puff, finisce ma così. No, come? Sì, come quella del senatore Wheeler Bordon, poi. Il supereroe giapponese aveva ai suoi piedi l'intero paese. Campione di judo, di kendo, di sumo, fece harakiri e mandò tutto in fumo. E ora, bambini, ricreazione. Allora, gli americani ancora una volta non si smentiscono e, come dire, sono il popolo più infantile di tutti, perché riescono a avere delle iniziative tipo quella di creare una federazione sportiva di professionisti che mangiano. Cioè, voglio dire, quelli che mangiano tantissimi hot dog nel tempo minore possibile, hanno una lega, giusto. Ogni stato ha la sua rappresentanza, poi fanno il campionato federale, poi non so, prima o poi ci sarà il campionato del mondo. Ma scusa, no? Lo sport alla fine è una cosa che devi intrattenere, ti devi divertire vedendolo, deve coinvolgere l'attività fisica. Uno è molto coinvolto, mangiare, no? Vedere uno che si mangia le uova sode, cioè il record di uova sode in mezz'ora. Quello che le mangia sicuramente ma anche guardarlo dopo. È divertente, ma scusa. Può darsi. Io mi diverto. Ma scusate, ma di cosa state parlando? Di mangiare... vabbè, dei campionati che ci sono in America, i professionisti che mangiano, non so, le uova sode, l'hamburger, l'hot dog, quantità, chi vince, chi ne mangia di più nel minor tempo possibile, vince, non so, adesso nel caso degli hot dog, quello che ha vinto si chiama Joy, ha mangiato 54 hot dog e mezzo in 12 minuti, quindi voglio dire, 12 minuti. E ha vinto un premio, ha vinto dei soldi? $400,000. Il campionato, la lega, tutto quanto. Quasi come Ruby, la bambina Ruby, anche lei. Sì, anche lei deve aver messo da parte 200.000 euro, che è un po' di più. A mangiare. Esatto. Ma allora posso farlo anch'io. Perché tu mangi gli hot dog a ripetizione? No, però posso mangiare delle cose che mi piacciono. Poi, l'altro ieri ho mangiato 18 kiwi di sera, senza allenamento, eh? Eh? E quindi, pensate se io mi allenassi, potrei diventare il campione mondiale di mangiatore di kiwi, kiwi maturi, eh? Ma come chi? Aspetta, 18 kiwi sono tanti, sì. Bambino Alberto. È impossibile. Infatti il giorno dopo sono stato poco bene. Vabbè. Mi sono svegliato all'alba. Eh? E avevo dei dolori alla pancia. Vabbè, ma ero gonfissimo. E beh, fermenta pieno d'aria. Ma per forza, ma i dolori lancinanti. La frutta non va bene. Kiwi. Ma no, è che erano, però erano kiwi maturissimi. Sì, dolcissimi. Un po' verdi scuri già. Sì, non erano neanche più dolci. Ma scusa, ma tu come fai? Dividi in due il kiwi e poi col cucchiaino. No, ma no. Così è buonissimo, no? Ma no, io pelo, eh. Solo che il problema con i kiwi, che io ho le mani un po' delicate. Sì. E il kiwi, sai che il kiwi è peloso? Sì. La pelura del kiwi mi crea una dermatite alla mano. Ah. Ma quindi non posso. Allora io prendo i guanti di lattice, no? Tipo quelli dei dottori, no? Frutti li infilano. Quello dei killer, sì, esatto. I guanti di lattice bianchi. Sì. Coltello. È terribile come immagine. Cioè, perché io uso il coltello. Taglio un capo, poi l'altro. Sì. E poi sbuccio tipo mela, no? Ma, sbuccio ma sbucci bene, tu sei bravo a sbucciare. Sì, sì, perché sono infogliato da mangiare. Prima faccio un po' fatica, poi prendo la mano. Sì. E poi diventa velocissimo, no? Sull'ottavo, il nono kiwi. Sbucciato, kiwi due bocconi. Ma due bocconi. I kiwi grossi due bocconi, i kiwi piccoli un boccone solo. E ingoio, perché poi io non mastico, eh. Ah no, Ma come? Io non mastico mai. Ma come non mastichi? Non mastico neanche la carne, figuriamo i kiwi. Ma questo è un tacchino, non ho capito. Bueno, è il mio ma così, lo schiacci il un po' il kiwi con la lingua sul palato? Lingua sul palato, lo schiaccio, tutti i suoi umori. Ma si spargono per la bocca e poi ingoio. Massimo è un esteta anche del gusto. Invece sì, credo che in queste gare lì è velocità. È infatti. Beh, posso essere anche veloce, Perché tu te li sei mangiato tranquillamente in una sera guardando la TV, 18 kiwi in due ore. No, ma che due ore? Cioè, non è che una serata mangiato 18 kiwi, io mangio 18 kiwi in 10 minuti, no? Ecco, poi... senza allenamento, io continuo a ribadire questo perché questo è. Sì, ma anche perché stare con i guanti tutta la sera, quindi 10 minuti risolve la sua cosa. Ma poi a me piace mangiare così, non gustare, devo ingoiare. Devo ingoiare più kiwi possibile nel più breve tempo possibile. Ma ci sono kiwi, budinetti. Ma spiegami, ho visto che tu come non sei. Budinetti anche con i kiwi. Con i budinetti, sì, era quella sera lì. È il problema? Che ho mangiato anche 4 budinetti. Ma, con la panna sopra. Ma... dopo i kiwi o prima? No, prima. Prima? Allora, no, ho mangiato prima due budinetti alla vaniglia con la panna sopra, prima. Poi 18 kiwi. Sì. E poi 10 minuti dopo, perché appena finisci 18 kiwi, no che stai male, Però, che ne so, senti un po' che ti preme qui la bocca dello stomaco. Sì, però passa, passa. Al momento sembra proprio una roba di... qui, stavolta non la passo, la nottata. Invece l'ho passata, cioè dopo 10 minuti mi sono mangiato due budinette al cioccolato, giusto, con la panna sopra. Giusto per chiudere, insomma, buco definitivamente. Ho mangiato normale. La mattina dopo è stato male. Chissà perché. Sarà stata la panna arancida, qualcosa. No, forse la quantità. La quantità. Il fatto che non hai masticato. Se l'ho mangiato in 10 minuti vuol dire che potevo, no? Ma forse anche i kiwi un po' marci, no? Perché io ho preso quelli il primo prezzo, no? Cos'è? Sei, vai in supermercato e c'è il cartellino primo prezzo. Primo prezzo. Che vuol dire questa roba qui fa schifo? E meno di così non puoi spendere. Se non li prendi in quel momento che li vedi, dopo un quarto d'ora sono scaduti. Per quello fanno l'offerta, no? Non è che ti fanno l'offerta: ehi signore, avete pochi soldi, c'è la crisi, vi ho fatto i kiwi in offerta. No, sono quasi marci. Sono a un passo dalla putrefazione. Quindi io li prendo e così la putrefazione e la fanno dopo che te li ho mangiati. Ma questo qui ha mangiato quanti hot dog erano? 54 e mezzo. Ecco, infatti. In 2 minuti. In 12 minuti. Però io, infatti, è su questo mezzo hot dog che vorrei soffermare l'attenzione. Beh, è come cioè, se lui mangiasse 54 sì, kiwi. Però, in mezzo. Ecco, qual è il momento in cui uno decide di smettere? Adesso, nel caso di Joy, aveva un record da battere, quindi avrà smesso il tempo giusto. Cioè, tu perché il ti sei fermato a 18? Infatti, tu quando è che decidi questo basta? Non cioè, ne avevi l'ultimo? Più o. Vabbè, ti fermi quando vedi la morte in faccia, no? Con in mano mezzo kiwi, al 18° kiwi, no? Sì. Già sei un po' di... vabbè, un altro me lo mangio, magari poi ancora. Perché ormai sei, come dire, pipì, poi. È una cosa meccanica, cioè non riesci più a smetterti. Anche... mangio la metà, sbuccio, mangio la metà, poi un attimo di... perché di quelli grossi, di quelli grossi, quelli no? Grossi, metà, ho mangiato la metà. Cioè, mangio metà, spiaci chi viene con la lingua sul palato, tutto l'umore, eccetera. Ingoio e lì c'è l'intoppo, perché sembra che non vada giù. Ah, ecco, vedi che c'è allora questa cosa di fisico. Ancora. Il problema è che dopo va giù. E poi vedi la morte in faccia. E sì, beh, comincia a mancarti il respiro. Cioè, non riesci, non hai più. Non, cioè, è talmente gonfio lo stomaco che ti comprime tutta la cassa toracica. Ma... quindi comincia a venire il respiro corto, ma... affannoso, poi il rumore dello stomaco, e lì dicevo che adesso forse è meglio che smetto, no? Anche perché non ce la fai più, anche volendo, anche se fossi tifosi. Dai, mangia l'ultimo! Ah, ecco, dai, mangia l'ultimo kiwi! E se mangio l'ultimo kiwi muoio. Allora ti fermi, hai capito? Cioè, una cosa non è una cosa scritta, è una cosa che ti senti, al momento in cui dici... Vedi che ha a che fare con lo sport, certo, è come l'istinto del centravanti, è una cosa che si sente. È il momento giusto, certo. Fermarsi perché fa passare la palla e poi tac, capito? Fermarsi perché per esserci al prossimo torneo, no? E che sono i due budinetti, no? Dopo dieci minuti poi si mangia due budinetti. Perché si è fermato, si è fermato. E dopo i due budinetti il terzo non lo mangi perché? E lì non lo so, sai perché? È perché poi ho mangiato due budinetti e sono svenuto. Voci alla radio! E mandate i vostri nananana alternativi a chiedoasilo @radio24.it. Yeah.